Eia. Claudio. Ciao Giuseppe, Santiago 95 Radio 5, sì, dove ti trovi? Sei qui a casa, però è sempre dentro l'antenna. Non te l'hai messa sul tetto? No, nella... però se riesco a sentire da te. Infatti, è interessante che riesci a parlare. Si trova. Perché non te l'hai messo lì? È andata in pensione, era dopo 17 anni. Oh, funzionava ancora, solo che non hanno manco stazionale, solo che i radiali, le cornacchie, per tre volte me li hanno buttati giù, alla fine mi sono rotto le palle e mi sono comprato l'antenna senza radiali. E beh, non hai modo, Giuseppe, cazzo, se lo sapevo l'avremmo scesa. Ah, perché c'ha l'ingresso da dentro la casa? No, ho capito, come la casa di mamma, sacro cuore, se metti male i piedi ti fare giusto. Giuseppe, troppe sono. Ti bruciare il finale, a meno che ti prendi un accordatore te ne accorgi. Devo regolare l'antenna, vero? No, la storna è quella tipo bastone. Chi è avanti? Chi chiama? Ciao Joker, mi hai sentito dopo tanto tempo. E che antenna stai usando che arrivi bassissimo? Il segnale non ce n'è. Ti sento solo di radio, ma perché ho un'antenna che... ha molta ricezione, quindi si riesca a tirarti fuori, ma basso basso, non so se Giuseppe ti ascolta. No, negativo. E che microfono stai usando, Giuseppe? Il microfono è quello originale del paracchino, del maglio. Ah, capo. Ma l'avevo messo a posto quel maglio? Sì, sono così, no? Non ti danno modo di aggiustarlo per mandarlo a loro, capito? Non mandarli in pizzi. In mille posti ho chiamato per vedere se si poteva aggiustare, niente da fare. Non mandarli in pizzi, mi hanno detto. L'unico che potrebbe fare il miracolo è Fabrizio, però non so se adesso ne fa ancora. È un peccato perché si va bene. Ma dipende sempre, Giuseppe, dove la metti l'antenna. Se c'hai ostacoli a fianco, la devi mettere in un posto più libero possibile. A che piano sei tu? Secondo piano. Quindi tua moglie non vuole a mettere la stazione. Si è rotta le scarpe. Ma io no, mi ho fatto un buchettino alla porta finestra per far passare il filo. Un buchettino piccolo, poi l'ho coperto tutto attorno con silicone bianco, non si vede nulla. Sembra che non sia stata mai bucata. Ho messo il 58 per non mettere, per non fare i buchi grossi, perché anche io sono così un po' pignolo. Sì, adesso vedo, ma stavo passando un po' di tempo. Quando si calma così. riesce a poi andare bene, ma se non c'ha il posto dove poter poter bombardare, non, se ha troppo muro, roba del genere, non ce la fa. Sì, ero grido allora. E beh, nella ringhiera non ce la fa, non ce l'hai terrazzina. Ecco. E vabbè, trovano una maniera di fottere. Io una volta quando mia moglie non voleva a bucare la macchina, sono andata a casa di Natalino, trappano ne hai sia, io che piacciamo l'antenna. L'ho bucata quando ho visto il moto dell'antenna, e cos'è questa cosa? L'antenna, e mai non ne volevo, l'antenna io oramai c'è. E ma infatti, mi interessate, se parassi dopo il nostro amico da casa qua, mi dispiace troppo per Agostino, lo sa. Ciao Giuseppe, non sono Giulio, sono Marino. Ok, da quale zona stiamo parlando, Giuseppe? Ah, ok, dai. Santiago 7 qui a casa, Ottava, Ok, continuate, scusate, sono cosa, vedi, mi chiami, ciao. Ciao, ma Giuseppe, no, sei vicino a casa adesso. Quando entravo mi diceva che lo disturbavo, ho detto arrangiati, io mi sono, ci sono 40 anni qua, no? Arrangiati tu, le piazza tatuare, adesso la terra. Sì, è meno stata aperta perché è in piana, in pianura rimane, capito? È una piana, verso il mare specialmente, tutta quella zona lì, Badesi, Castelsardo, tutta quella zona è tutta aperta. Giuseppe, fai passaggi corti. E comunque se c'è l'accordatore, attaccare l'accordatore, l'accordi, capito? Io quando c'è una nuova stazionale così a due, l'accordato arrivava a uno e uno. E non lo so perché io è la moto che l'ho comprato. L'ho ordinato da internet e non smetterò a correre il batte, metterò non smetterò a accordatore il mio. E c'è un'opzione per l'altra cosa, ti muori la testa. E vabbè, per andare contro tua moglie no, ma le donne sono tutte così, non è che la mano tanto la frequenta. Ah, sono andate per questo. Vediamo un pochettino, lo sai che Agostino l'avevo trovato alla cavalcata, mi ha detto, beh Agostino domani lavoro, no che sono, me ne sono andato in pensione, già 4 mesi sono in pensione, e poi ho saputo questa cosa, cazzo, guarda, mi è dispiaciuto perché con Agostino eravamo papà e ciccia, sempre insieme davanti. Vedi, bisogna godersela perché basta non nulla, poi io e ce ne andiamo. Non ho più sentito nemmeno Alessandra, prima la sentivo, adesso non l'ho più sentita da un po'. E beh, come sta? Certo che, vabbè, lei già è amica con la moglie di Giancarlo, magari si fanno compagnia, dai, sono molto amiche con la moglie di Giancarlo, il presidente del CISO, quello che criticava tanto, e poi in effetti si è visto che cosa valeva, perché poi dopo che si è andato lui è andato tutto a catasfascia. No, ma infatti Giancarlo sì era borbottava per ogni cosa, però era molto severo, faceva rispettare le regole, capito? E lui le piaceva così, non aveva lavoro, però lì dava il cuore. E in casa poi veniva anche criticato, a volte se ne andava incazzato lei, lo gridava e se ne andava, perché lo criticava anche davanti. Se ne andavano a questo vizio, poi telefonava la moglie, diceva cosa gli avete fatto a Giancarlo che si è incavolato perché gli hanno detto così, ma non fate così, lui ci sta male, poi questo e quell'altro, fa qualche lavoro. Era una persona valida comunque, perché si interessava, andava alle riunioni, faceva tutte queste cose qua. Infatti poi gli avevano dato, comandava tutto quanto, tutta la Sardegna, prima di morire. Poi vabbè, anche lui poveraccio, si lamentava che aveva sempre dolore, lo prendevano tutti in giro, oh, adesso mi arriva Giancarlo, oh, il braccio, e invece so cos'era, dei mini infarti che aveva e non si accorgeva di nulla. Lui pensava che fosse un reumatismo, capito? Lui veniva sotto questi dolori forti al braccio e veniva col braccio così, penzoloni, cazzo, oh, c'ho questi dolori al braccio, tutti ridevano, capito? Lui pigliava in giro, dai. E invece poverino aveva tutte le ragioni, aveva avuto dei piccoli infarti e non si era mai accorto di nulla. Giuseppe, siamo qua quando vuoi, ciao ciao, buonasera. Attento Joker, ci sei? Che è rimasto su 10, Marino ci sei? È rimasto su cosa o già, già entro dopo, scusa. No, io sono qua, non c'è problema, sono all'ascolto, dai, sto facendo la telefonata. Lo sai, lo sapevo, era morto Giancarlo. Ma parla nel senso. Sì, Giancarlo è morto, e già da un bel po'. E anche Agostino è morto. Agostino? E quando è morto Agostino? È morto, è andato in pensione, già ha fatto 4 mesi, 5 mesi di pensione e poi c'è rimasto. È avuto un tumore. Oh, la data di vita, per carità. Conoscevo bene sia Giancarlo sia Agostino, perché erano in serie, c'era una serie. Già è vero, siamo in passaggio, già, siamo in passaggio. Faccio bene, io sto a fare, mangiare bene, boh. Ok, a dopo, dai. Sì, Agostino l'ho trovato a cavalcata, ho detto domani andavo a lavare, e lui ha detto no, che sono andato in pensione, finalmente ce l'ho fatta, era tutto contento, buon ragazzo. Poverino, ragazzi. Va bene, dopo, dai. Ciao. Ma tu a me mi conosci, venivi a Ciso? No, venivo a Ciso, noi c'eravamo la sede, la Socibina anche in Piazza Lanzossi. Conosci la Torelai, Torelai conosciuto là, sì. Sì, a voglia, Torelai abitava di fronte a casa mia e non lo conosco. Conosco tutti la moglie, i figli, le figlie, tutti quanti conosco. Certo che lo conosco. Conoscevi a lui, conoscevi anche la moglie è morta, eh? Lo so che è morta. E Aldo abita di fronte a casa mia, lì, cioè la porta di fronte. Esatto, sì Aldo Pina, sì lo so. Lo so diciamo perché Carla è la compagna di mio nipote, capito? Come ci conosciamo bene, abbastanza bene con Carla. No, io andavo quando eravamo giù a Cosi, in Piazza Mazzotti, e c'era lui, c'era Bacchisio, e eravamo in parecchio, poi boh, si è imbastardito tutto e tutto il mio mare è andato. Poi che noi ci conosciamo, io non ti ho presente, capito hai già? Io tuo nipote a me mi ha cambiato tutte le prese in casa, tutte le prese, figurati se lo conosco. E affianco a te ci abita anche mia sorella, non so se abita in posto di Aldo oppure più avanti di Aldo. Non lo so, già me l'avevi detto, però non ho capito chi è, vabbè che io qua non conosco manco chi si tiri un barazzo, fatti un conto, dove posso ripartire io, vado a mangiare, a dormire e via, non è che a controllare niente. Adesso devo andare in farmacia, ho trovato un quarto che il cane è stato male tutta la notte. Che c'aveva? Stava qualche virus, qualcosa ha mangiato, mi ha fatto male. No, stava perdendo sangue dal bisellino tutta la notte. Stava macchiato tutto quanto di vani, tutta la notte la vede se bussare. Tappetti, di tutto e di più. E di ogni tanto gli viene, c'è una cistite, e ogni tanto gli viene questa cosa, devo fare la cura di antibiotici, di antinfiammatori, e costa una barca di soldi, tra antibiotici e antinfiammatori ho speso oltre i 50 euro. Purtroppo il cane. No, il cane mia figlia, di scuola mia figlia c'è un cane corso e ormai ci sono tutti i cani in calore, no? E si sono avvicinati tutti vicino al cancello e vedono morendo. E infatti ha preso lo stesso una specie di una cosa del genere, appunto, le ha dato l'antibiotico, capito? E è passato. Oh, io, va bene, dai, ma non mi sono accorto, sto finisco il sistema di roba, a dopo già. Sì, ciao Mari, ciao, io adesso sto provando a cercare infermare se c'è qualcuno, se no chiudo. Sì, a dopo, dai. La tighetta, ti dai, no, che ho PMR, buh, ho già. Bisogna fare così. Se ce ne tutti e due bisogna sfruttarli, no? Però perché ho sentito Giuseppe stava facendo una prova con l'antenna che ha messo e gli stava un controllo. Io qua non c'è, c'è freddo già, capito? Freddo c'è. Ma no, per il 27. Camera, per il 27. Sì, già ho capito. Sto scherzando. Dimmi che c'è un buon cuore lì, eh? C'è la camera che è più fredda, così è. E tu vuoi di 90? Lo sento. Che pare una coperta alla marina di Ramoninato. Ma che dica quella cube che è nata? Non la faccio un po'. Luca! Si chiama Manta, non cubista. Un attimo Gianluca, la aspetta con un redattore che ti faccio tornare la bambola gonfiata, così si scaldi, dai. Ok, ciao, dopo. Ma sono basso, non capito cosa ha detto. Ho detto con l'organizzatore ti faccio tornare la bambola gonfiabile, almeno ti scalda un po'. Negativo, calmati, sei il matto, non ti spicca, ho capito, bambola gonfiabile, buh. Ha detto quando vai l'attore che ti porta la bambola gonfiabile, così ti scaldi un po'. Ma come te la poco, la buco subito. Buon gustaio, insieme, hai detto. Ecco, la pompetta si buca, Otto, si buca con la pompetta. Non c'è problema, già abbiamo la palla liquida. Hai visto, stanno tutta a cataspascio anche la politica, ragazzi, adesso sta mollando anche Di Maio. Molta gente si era affidata a lui, che era una persona come si deve, va con lei. Arrivo subito. Se vuoi andare in PMR, per PMR, poi devo fare una telefonata prima, dai. Attenzione al canale 10. Carissimo, Franco sono, ciao. Aspetta che tolgo le coperture dalla stazione. A me fa, sto bene. Ok, ok. E tu hai sistemato tutto? Sì, sì, tutto sistemato. Abbiamo piazzate e tutto. La nuova game hai messo? Eia. Alla grande, come ti stai trovando? Benissimo, benissimo. Arrivo anche due segnali in più. Figurati, senza arrabbiare. Adesso non è il problema delle cornacchie. Infatti, dai. No, a me non mi sono tutto il problema. Adesso andranno sui tiranti, ma non me ne ha fatti nulla. Lì già siamo belli in tira, già non li fa niente. Però prima andavano, si troccavano tutti i radiali. Cazzo. Sì, quando erano stormi, anche se si mettevano 20 stormi, non li vanno di nulla. Ma quando sono cornacchie, come spiccava il volo, me la trocca. La cornacchia inizia a pesare già, non so se arriva al chiletto, non fate un chilo, no, ma comunque un guardiale non lo regge. Cosa volevo dire? Vabbè, me ne arrivavi forte anche prima, quindi qui sei sul più del 30. Cappa. Ma l'antenna andava bene, capito? L'abbiamo tolta perché Claudio ci aveva un mozzo di antenna buscato di Mantova 1 con tutti i radiali. Ha detto ripiacciamo quella e facciamo l'antenna nuova. E abbiamo fatto così. Ci siamo tutti ben appittati, fatto bene tutto il lavoro. Va a farla funzionare, ragazzi, c'erano due stazionari. Non abbassava e non regolava la molla. E cosa era? Sicuramente il cavo che c'è dentro. Il cavo che c'è dentro? E dove il cavo? C'è il cavo di massa dentro l'antenna, dentro la... cosa che vuole bucato, visto quel coso in resina che c'è, quel tubo in resina, quello lì vuole bucato e rimane lì dentro dove c'è quel ribattino. Me lo ricordo male io, ma non era fuori il filo, il cavo di rame non è esterno, no? Me lo ricordo male io. No, va a finire dentro l'antenna. E quello lì non si può fare, a pizzo. Allora abbiamo buttato, dicevi passiamo la tua, no, lasciami lì. La compro nuova direttamente, aiuto, palo e tutto. Ho cambiato palo, tiranti, tutto quanto. Alla grande, dai. Meglio così, dai, sono contento. Ok. che quando un giorno stavo facendo un po' di ascolto, infatti arrivavi bassissimo qua, sicuramente stai dicendo con dei problemi. Quando c'è una volantena, quella che abbiamo piazzato, che non andava bene, non c'aveva massa, capito? Caspita, guarda quanto perdeva. No, questo va alla grande. Alla grande, ascolta, molto, molto costa, se lo puoi dire. Sì, allora io l'ho pagata 148, che era quello che costava di meno. Però con viaggio e tutto mi è venuto a 170. Non so dove se la fanno pagare. Vabbè, non me ne ha fatti nulla, interessante che l'antenna vada bene, mi tolgo il problema almeno. È inutile che sta a comprare un'antenna che poi non conosco, e questa che almeno ho visto il forum, eccetera, eccetera, c'è molta gente soddisfatta, ce l'ha Giulio, ce l'ha, ce l'hai tu, anche se è stata costruita da voi. Ma è una bella antenna fatta bene, bella robusta, c'hai tubi, non è resina di certo, c'hai tubi di PVC. Sì, sì, no, l'ho vista su qualche video, dai. No, ma già la nostra dà soddisfazione, conta, ripeto, la mia ce l'ho a livello di finestra. Sicuramente nella zona tua c'è una bomba. Ma queste antenne le puoi mettere anche in terra? Come sono dei dippuri, ma non me le ho scritto. Vabbè, ma sono coperto, ho tutti i palati di fronte, che mi trattano, più di così non posso pretendere. Comunque ho fatto anche qualche DX quest'estate, l'estate scorsa, dai. Dobbiamo metterci sul tetto. Non lo so, vediamo un po', dobbiamo aprire, perché c'è anche già un'altra persona che ha problemi di antenna con la TV. E qua bisogna scoperchiare, bisogna togliere le tegole, capito? Devi aprire il tetto proprio. Guarda che la TV magari stanno spostando la frequenza, bisogna risintonizzare. E lui c'ha un partitore, praticamente su divide l'antenna in due cavi, e uno discende in una falda del tetto, diciamo sulla falda sinistra, e l'altro cavo discende sulla destra, quindi uno gli va in cucina e uno in camera letto. E da una parte vede, dall'altra parte no, quindi sicuramente è entrata acqua, quindi sarà tutto da cambiare, da cavi, partitori, una volta che sei su, conviene fare tutto nuovo. Ma infatti, come ho fatto io, ci ho buttato tutti i cavi, sembravano nuovi nuovi, invece erano dentali, duri come il ferro. Si vetrificano, poi si entra l'acqua dentro. Io ho visto addirittura certi impianti, addirittura l'acqua riusciva dalla presa. Più figurati come si infiltrava l'acqua nel cavo, camminava nella discesa e ne usciva dalla presa, dall'antenna. Tutto ruginoso il partitore. E allora deve essere tanta acqua, e lì non c'è nulla da fare perché ha ruggito tutto il filo. E poi con la famassa, con la cosa che si forma, con l'ossido che si forma, fa massa uno con l'altro e ti fotte. Iniziate a parlare poi tutti i disturbi che prendono il cavo e sappiamo là, comunque. Vedremo, è che è un bel altro, questa antenna no, cazzo, sono un bel di metri. Ho paura che non so se regge il vento, se si spezza, non lo so, la verità, sono un po' combattuto là. Ripeto, per quello che mi serve, gli amici qua vanno accendo già vi sento quasi tutti. La mia che resiste 160 km orari. Quel vento che ha fatto, l'hai visto, non me l'ha buttata giù, ed è alta la mia. Eh sì, ma quella è un'antenna, questa è una canna da pesca, e quindi non saprei se potrebbe reggere quelle intemperie lì. Ma magari va bene lo stesso, perché la canna da pesca ti regge pesi di 5-6 kg, un amico mi ha preso un'altra, pesava 5 kg e mezzo e ci è uscita alla fine della battigia, alla fine della spiaggia, tirandola. Immagina, tirare tutti l'applauso, quando la bigliata battavolta. Sì, che canna era, come era il carbone, non so. No, non era il regge, così quando tu ce l'hai in mano puoi lavorare diversamente la canna, invece quando la metti fissa, cioè piantata, ma si potrebbe spezzare alla base. Lavora diversamente. Allora io l'ho vista autocostruita, nella base praticamente l'ha riempita di polietilene espanso, poi l'ha praticamente portato a livello e l'ha verniciata. Tu senti, sembrava un'antenna fatta dalla fabbrica, questo qua, l'ha costruita, io ho guardato il video. E la bobina lui l'ha riempita con la schiuma, si lo metto anch'io quel video. No, più che altro bisognerebbe internarla dentro il manico, diciamo. Infilargli un bel manico di tipo di ombrellone, insomma, il legno buono, però ci vuole del legno buono, perché il metallo non puoi inserirlo all'interno, perché più su della bobina non puoi salire col metallo, più giù sì, ma più su no. Quindi l'unica cosa è il legno, e vedere, sperando che il legno tenga, capito? E vedi se frazzicheggia. Oh, vabbè, ci becchiamo anche noi, mi fra, non è che... Però, da quello che mi ha detto una persona che mi ha autocostruito tante volte le canne da pesca, e anni che le costruisce, ha detto che l'unico problema è che praticamente si vetrificano, con l'andare del tempo si rovinano, capito? Beh, quello sicuramente. E avendo, non so, del termorestringente, potresti tutta... dopo che la fai a rivestirla col termorestringente, sicuramente dura di più, però ci vorrebbe di misure, di dimensioni un po' grandi, dai. Non so se riuscirei a trovarle qua. Sì, basta unirlo, non ci vuole nulla. Basta unirlo, poi dove magari non arriva gli metti una passata di coso, di adesso vulcanizzato. Questo che ho fatto adesso, diciamo, mi sa che ho usato anche del Vulcan, del nastro e del Vulcan vulcanizzato. Però ripeto, ce l'ho qua davanti alla finestra, quindi sembra che vada bene qua, anche se qualche volta me l'ha piegata a gigotto, come si suol dire. Addirittura ho trovato la punta incastrata sotto il cornicione della casa, dai. No, la mia più di tanto non l'ha piegata, perlomeno quando ha fatto quel vento forte quella notte non l'ho vista, però lì domani mattina l'ho vista come lavorava e non piega più di tanto. Sì, si piegava, ma non esageratamente. No, questa piega parecchio, perché è una canna di quelle vecchie, capito? Sono in vetro resina, quindi sono molto morbide. In un certo senso è anche un buono che fletta, no? Che si pieghi, diciamo, alle sferzate del vento. Però è da testare, dai. Se rimane rigida si spacca, è normale. No, ma questa qua mi ha dato delle grosse soddisfazioni, anche al produttore si sentono bene. Al produttore si arrivano V5. No, proprio senza essere attaccato né niente, non V5. Cioè, rispetto alla mantova hai guadagnato, così? Beh sì, sembra di sì. Eppure, cioè, la mantova è una signora antenna, Di due punti, ma c'è scritto anche che guadagni di due punti. Cioè, rispetto alla mantova c'è due punti in più di guadagno. Beh sì, no, una bella antenna. Ripeto, già sono soddisfatto di questa, figurati di una originale, che penso con una marcia in più ce l'abbia. E non ti credere, registrato in breve, un attimino. E non ti credere, perché Giulio arriva bene lo stesso con quella che c'ha. Adesso si sta facendo riportare quella originale che è andata al nipote, gli ha chiesto di riportare, ha detto che gliela porta. E si mette quella originale adesso. Avanti break! Ciao Nicola, Santiago 4, Radio 2, avanti. Perché è un po' grigio? Come mai rimane in ascolto? Puoi intervenire anche tu, se volendo. Allora, l'amico Franco, che tu sicuramente non hai mai sentito, ha costruito l'antenna uguale alla mia, solo che lui non c'ha l'originale, l'ha costruita lui, è uguale, stesse misure, stessa cosa. Adesso te lo mando avanti, avanti Franco. Sì, io sento a malapena che c'è un po' di QRM, però se non sbaglio ho già parlato con lui, mi sembra che abbia un portatile o qualcosa del genere, non è lontano da qua, da noi, però ripeto, qua non arriva bene. Ciao Lupo Grigio, è il capo, capito? Ma se non cambi antenna qua è un po' difficile ascoltarti. Oh, comunque dai, ti saluto, mi stanno chiamando da Pure Room, devo scappare purtroppo, dai, ci sentiamo più tardi se coincide, se no un abbraccio. Ehi Afra, dai, buona serata, dai, buona continuazione, un abbraccio anche a te, ci sentiamo, avanti Lupo Grigio, hai parlato anche con me da Via Mossa. Io ti sentivo ma passo basso, però si muove appena la lancetta. Adesso c'è Santiago 4, Radio 3, dai, ti posso dare. Già ti ascolto lo stesso. E l'interrogativo è da 100.000 euro. Allora, c'era Franco, mi è andato via, c'ero io, poi c'era Giuseppe Tornado, è andato via, e adesso siamo rimasti io e tu e basta. Non lo so se ci sia qualcuno in ascolto. Dipende dalla zona, se sento una buona che non c'hai ostacoli, anche comportati. infatti diciamo lì, sono arrivato anch'io con la porta per il cane giù a pascolare e sono arrivato così. Io sono qua. Così non si muove nemmeno l'acqua. Sì. Sei Santiago 1, non siamo manco 2. E l'altra sei Santiago 4. Perché? Con questo non capisco manco che cosa dici, si sente bisbigliare ma non si capisce, non si muove manco la lancetta. Si sente la voce ma il segnale non ce l'è. Per intenderci è livello QRM. Hai capito? Sì, adesso sì. Sì, si sente solo la voce bisbigliare, non si muove manco la lancetta del segnale. E sei quasi in Santiago 4, dai, non ci arrivi a 4, ma sei quasi 4. Lo so, mi arrivi 9 da Santa di Arrivesi, Santiago 9. Sì. Perché ogni tanto uno la comportante, non so che possa essere. Io sono K, sì, portatile che c'ho io è buono, c'è l'antenna corta ma va bene. Sono arrivato anche a Porto Torres, dalla via vicino a casa. Sì, è la strada nuova che porta praticamente verso il Monte Rosello, quella strada nuova che hanno fatto, che porta verso il Monte Rosello Alto, da via Valdetta, sale su e poi porta fino al monte su. È un Intec, è una cosa logica, aumenta di poco ma aumenta. Ma la batteria ha sempre problemi perché si scarica, man mano che parli si scarica e quindi la potenza diminuisce come logica, no? Mentre invece se tu usi un alimentatore la corrente è sempre alternata ma è sempre ce l'hai sempre uguale, capito? Allora, gli alimentatori, vai dai cinesi come quelli dei computer, vanno benissimo, ci hanno molti amperi, sono un po' critici, però perché non sono con la scatola, sono un po' critici, però vanno bene, li usa tanta gente, altrimenti non gliene dà. Ehi, vendono quelli per i trasformatori, costano una fesseria, capito? Costano una fesseria e ci hanno anche 10 amperi, 12 amperi, vanno bene. No, ci possono collegare all'interno del case, capito? Oppure vai su internet, ci sono quegli alimentatori switching che sono a schede, invece che avere il trasformatore interno c'hanno la scheda e contano la fesseria e vanno benissimo. Vai. Allora, gli alimentatori devono avere un amperaggio che possa coprire l'assorbimento dell'apparato, quindi che minimo deve essere una ventina di ampere, così se fai banda laterale o roba del genere non ti assorbe più di tanto, perché se assorbe troppo poi si abbassa la luce eccetera eccetera. Devi prendere un alimentatore switching da 25 ampere, guarda, ce n'è per i porci. Io invece sono, quando devo fare dei collegamenti recenti vado a Osino, vado su a Bonaria, dove c'è la chiesa, su in un in alto e parlo con tutta la Sardegna, con Cagliari, con come si chiama, ho parlato anche con come si chiama, a Basanta. E se da andare da Ombra, basta andare da Brincome, ci vedete. Da Brincome, Virginia, per tutta Sassi. E a esserci ce ne sono, solo che sono mandroni a cena. Già ce ne sono. E non siamo rimasti in tanti, è quello che volevo dire. Perché poi si dividono, a volte vanno in PMR, a volte entrano in 27, capito? Non vanno sempre in 27. Adesso per dire, se accende più bene, deve essere, capito? Stanno parlando di PMR adesso. Sono tutti uno vicino all'altro, capito? Sono tutti a latte dolce, si sentono per questo, perché sono tutti uno vicino all'altro. La concessione basta quella della 27 a quanto si vede, non devi pagare una concessione a fare, basta quella della 27. E ci sono i cinesi che li usano anche per l'interno del negozio, questi li ho usati, si chiamano i commessi, proprio là. E lo so, però quasi tutti quelli che c'hanno il PMR sono persone che hanno la 27, capito? Naturalmente si pensate sempre a fare un omologato, come c'è lui, della Inter, che infatti il mio certo impulso non arriva e ce la prendere lui, dove arrivo arrivo e non arrivo parte. Per avere la concessione del PMR bisogna sbarrare la casella PMF, ce l'ho fatta io da poco e ho messo CB e PMF, tutte e due, in una concessione sola. Troppo alto è. Io, quelli sono cari, io me l'ho fatto arrivare da pure il baracchino, l'ho pagato 80 euro, là lo volevano 160, fatti il conto, e non è di differenza. Il PMR lo trovi a pochi spiccioli, vai, dove li trovi, tanto sono giocattoli, non conviene manco prenderli, perché fatto 50 metri non senti più a nessuno. Natalino, oh Natalino, quello che vanno fatto devo andare, io me ne sto per andare, dai, avanti, dopo. Sono io, non c'è problema, là. Ho detto, la concessione l'ho fatta io, e c'è scritto nel foglio, c'è scritto anche PMR, sbarri quella casella lì e hai anche diritto al PMR, però quelli lì sono giocattoli, se tu compri uno di quei PMR omologati, fatti 50 metri non senti più a nessuno, ti conviene rimanere in 27. Io non ne uso lo stesso di quelli lì, perché lo so che sono giocattoli, li ho avuti e mi si sono anche rotti. Infatti c'è una portata ottica, so. Si dice a portata ottica, per quel motivo se le antenne non si vedono non si sente più nulla. Ma boh, dai, io vi saluto, buona serata, sai che devo andare a mangiare. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, anch'io sto chiudendo, va, che devo fare cose.